Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Good evening. Do not attempt to adjust your radio. There is nothing wrong. We have taken control as to bring you this special show. We will return it to you as soon as you are grooving. Welcome to station WEFUNK, better known as We Funk, or deeper still, the Mothership Connection, home of the extraterrestrial brothers, dealers of funky music, P-Funk, Uncut Funk, The Bomb. Coming to you directly from the mothership, top of the chocolate Milky Way, 500,000 kilowatts of P-Funk power. So kick back, dig, while we do it to you in your eardrums. Oh, me? I'm known as Lollipop Man, alias the long-haired sucker. My motto is... Make mine the P-Funk. I want my funk uncut. Yeah, make my funk the P-Funk. I want to get funked up. Now this is what I want y'all to do. If you got faults, defects, or shortcomings, you know, like arthritis, rheumatism, or migraines, whatever part of your body it is, I want you to lay it on your radio. Let the vibes flow through. Funk not only moves, it can remove. Dig? The desired effect is what you get when you improve your interplanetary functionship. Sir Lollipop Man, chocolate-coated freaking habit form. Doing it to you in 3D. So groovy that I dig me. Once upon a time called now. Somebody say, is there funk after death? I say, it's 7-Up. Yeah. I dig. Let me put my sunglasses on. That's the law around here. You got to wear your sunglasses so you can feel cool. Gangsta lean. Y'all should dig my sunroof top. Well, all right. Hey, I was digging on y'all funk for a while. Sound like it got a 3 on it, though, to me. You know, I was down south and I heard some funk with some main ingredients like Doobie Brothers, Blue Magic, David Bowie. It was cool. But can you imagine Doobie in your funk? Ho! W-E-F-U-N-K. We funk. Make my funk the P-Funk. Ho! I want my funk uncut. Oh, make my funk the P-Funk. I want to get funked up. Him. I want the bomb. I want the P-Funk. P-Funk, y'all. I want my funk septo. Make my funk the P-Funk. Home of the extraterrestrial brothers. Getting deep. Once upon a time, call right now. Ain't it funky now? I want to get funked up. I want the bomb. I want the bomb. Peace. Don't want my funk stepped on. Oh, make my funk the funk before I take it home. Yeah. When I leave it, y'all, I want y'all to stay tuned for Star Child. Bentornati come tutti i sabati sera qui su Radio Wombat Tonight Alive. E stasera, se l'avrete riconosciuto dalla sigla e siete pronti a muovere il culo per questo sabato sera, ci sarà le due creature musicali, ovviamente partorite da quella mente geniale che è George Clinton, ovvero i Parliament e i Funkadelic. Due dei veramente i più grandi gruppi funk della storia, possiamo proprio dire i due gruppi che hanno iniziato il funk, e poi vedremo, sono due gruppi ma fondamentalmente sono lo stesso gruppo. Però prima, come dico sempre a inizio serata, ricordiamo sempre i nostri contatti qui di Radio Wombat. Ovviamente il sito che è wombat.noblogs.org, la nostra casella mail che è postawombat@insiberia.net, e per mettervi ancora più velocemente in contatto con noi i nostri canali social, che sono twitter.com/radiowombatfi e su Facebook facebook.com/radio-wombat-firenze. Sperando che ci vogliate far sapere cosa ne pensate, suggerimenti, proposte. Noi siamo sempre qui a disposizione per ascoltare tutti, ovviamente. Però ributtiamoci in questo sabato sera funk per trastullarvi un po' in questa serata, e partiamo subito a bomba. Come già detto, queste sono le due creature partorite dalla mente di George Clinton, e inizialmente i Parliaments sono nati tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 a Plainfield, nel New Jersey, precisamente in un negozio, in un negozio da barbiere. Infatti era lì che lavorava George Clinton e insieme ad altri amici, ovvero Ray Davis, Fuzzy Haskins, Kelvin Thomas e Grady Thomas, avevano formato questo gruppo vocale molto ancora molto ispirato al duo, allo stile vocale del doo-wop nero. E George Clinton ne faceva sia da leader che da manager. E il primo successo del gruppo arrivò solo nel 1967 con il singolo I Wanna Testify su Revelot Records. E dopo il successo di questo gruppo, di questo primo singolo, George Clinton reclutò anche per completare la band altri ragazzi che giravano lì intorno a quel negozio di barbiere a Plainfield, ovvero Billy Nelson al basso e il suo amico Eddie Hetzel alla chitarra. E per completare l'organico vennero assoldate anche Tone Ross alla chitarra e Tiki Fullwood alla batteria, e a completare l'organico Mickey Atkins all'organo. E questo è il primo singolo di successo, I Wanna Testify, quando ancora i Parliament erano con l'articolo, ovvero The Parliaments, e con il plurale, la S finale, I Wanna Testify, Radio Wombat. questo è stato il primo singolo di successo di quelli che ancora si chiamavano The Parliaments. Però, visto riscosso il primo successo, ovviamente con la testa calda di George Clinton, arriva subito il primo problema con l'etichetta discografica Revolut. E quindi Clinton, che era un gran furbacchione, decise di cambiare il nome alla band, chiamarla Funkadelic, e di andare a fare un altro contratto con un'altra etichetta discografica, in questo caso con la Westbound Records. E quindi in questo momento George Clinton è il leader contemporaneamente di due band che però effettivamente sono la stessa band, perché si può un po' dire che i Funkadelic fossero la backing band, la band di accompagnamento del gruppo vocale dei Parliaments, che poi alla fine vedremo che fondamentalmente si fusero insieme a seconda dell'album che ci fosse da pubblicare. E tutto questo intorno al 1970. Però ecco, questi due progetti sono le due parti dell'idea di funk nella testa di George Clinton. Infatti i Parliament erano fondamentalmente un gruppo orientato verso il suono Motown, verso il suono soul della Motown, potenziato in un power rock dentro a un ritmo da discoteca, con le sue copertine dei dischi altamente seducenti, oscenità varie dentro i testi e titoli a presa di culo molto parodistici, diciamo, via. E invece i Funkadelic erano proprio la profana rappresentazione della vita urbana, una via di mezzo tra le jam blues di Jimi Hendrix e Sly Stone, il jazz rock e il gospel, la fantascienza, l'horror e l'eroina che scorreva a fiumi. E in quel 1970 i Parliaments faranno uscire il loro primo disco, Osmium, fatto uscire, pubblicato su un'altra etichetta, la Invictus. E invece sempre in quel 1970 uscirà anche il primo disco dei Funkadelic, chiamato semplicemente Funkadelic, in cui adesso ci ascolteremo questo primo brano estratto, che è Mommy Was a Funkadelic. Radio Wombat, Tonight Alive. If you will suck my soul, I will lick your funky emotions. Hey, baby, hey. Yeah. sin. I won't do you no harm. I am a funkadelic, dedicated to the feeling of good. And baby, I'm good at being good. Let me play with your emotions, for nothing is good unless you play with it. I didn't make the rules, I follow. And what's so nasty about funky music? Feels good to me. This music, I said it was for the old country folks. I went to New York, got slick, got my hair laid. I was cool. I was cool. But I had no groove. No groove. No groove. I had no groove. But here it comes. But now, fly on, baby. Cause I can. Fly on, baby. You got it. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. You got it. You got it. You got it now. Fly on, sisters. Play on, brother. You got it. Boom, boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Questa era la era il lunghissimo trip psichedelico e funky di Mommy What's a Funkadelic, dei Funkadelic del 1970 nel loro primo album. E l'anno seguente i Funkadelic nel 1971 faranno uscire il loro secondo lavoro, il cui titolo è Free Your Mind and Your Ass Will Follow, che è il primo album dove dentro l'organico viene assimilato anche il grande Bernie Worrell al sintetizzatore. Però questo è un album un po' di transizione. Un altro album che vale sicuramente la pena di farvi ascoltare sarà il terzo, sempre di quel 1971, che si chiama Maggot Brain, dove nell'organico si rileverà l'aggiunta anche del grande bassista Bootsy Collins, arrivato direttamente dalla band di Giacomino Marrone, da cui vedremo che da lì a poco ci sarà un vero saccheggio dell'organico della grande orchestra di James Brown da parte di George Clinton per far esplodere il suo suono funky nei dischi successivi. E nel 1972, anni molto prolifici questi per George Clinton, vedrà la pubblicazione di America It's Young, proprio uno scioglilingua questo, e poco dopo l'uscita di questo album nell'organico si rileverà le prime defezioni di Lucius Tow Rolls, del grande chitarrista Eddie Hetzel e di Bill Nelson, che poi gli ultimi due, Eddie Hetzel e Bill Nelson, torneranno a aggiungersi al gruppo anche per album successivi. Vedremo poi nella storia dei vari organici che, vista la grande personalità, diciamo, tra virgolette, di George Clinton, ci saranno continui cambi nelle line-up delle due formazioni, come già ampiamente visto per altre teste calde come James Brown. Ma come vi ho già detto, se sei un genio della musica, pretende anche nient'altro che la perfezione dai tuoi musicisti, e quindi ovviamente si tramutano dei despoti per quelli che andranno a suonare sotto le loro grinfie. E dopo, però, sempre in quegli anni, nel 1972, entrerà a far parte dei vari gruppi, dei due gruppi, anche Michael Hampton alla chitarra. Però dopo tutte queste chiacchiere vi lascio a una doppietta, tutte e due da Maggot Brain del 1971, La prima è l'omonima dell'album Maggot Rain, e la seconda è il super rock e super funky di Super Stupid, Funkadelic and Parliament, su Radio Wombat, Tonight Alive, Maggot Brain. Mother Earth is pregnant for the third time, for y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all or drown in my own shit. Questa era la sognante Maggot Brain. E ora sentiamoci subito a ruota, sempre dallo stesso album del 1971, Super Stupid, Radio Wombat, Tonight Alive. We'll be right back. questa era la super roccheggiante Super Stupid. Non vi è sembrato di riconoscere qualche influenza? A me mi ha ricordato un po' dai, quello che suona anche ora ai giorni nostri. A me mi ha ricordato Lenny Kravitz, però diciamo con almeno 15-20 anni da anticipo. Mi sembrava che potesse essere già tutto qui in questa Super Stupid, con questa chitarra del grande Eddie Hetzel. E passiamo al 1974, dove George Clinton ritorna all'altro suo progetto, ovvero ai Parliament, e inizierà questo 1974 firmando per una nuova etichetta discografica, la Casablanca Records, un'etichetta più legata, diciamo, al versante disco del suono. La Casablanca ha pubblicato diversi singoli storici disco. E la formazione dei Parliament si aumenta ulteriormente con questo nuovo ricambio, ovvero arriveranno gli Horny Horns, i corni arrapati sempre dalla formazione di James Brown, e trasformeranno il suono dei Parliament in un R&B basato sul suono funk, appunto, di George Clinton, e implementeranno con i loro fiati gli arrangiamenti vocali dei Parliament, però restando sempre a quell'orientamento chitarristico funk rock dei Funkadelic. E in questa grande commistione di stili e di influenze, in quel 1974, i Parliament faranno uscire il funkissimo Up for the Downstroke, dove Bootsy Collins al basso fondamentalmente implementa il suono di James Brown nelle strutture funk rock dei Parliament. E nell'anno successivo faranno uscire anche l'interlocutorio Chocolate City. Ma adesso sentiamoci quella bomba che è Up for the Downstroke dei Parliaments su Tonight Alive Radio Wombat. Yeah. questa era Up for the Downstroke dei Parliament nel 1974. E l'anno successivo, il 1975, è un anno fondamentale perché uscirà quello che sarà considerato uno dei capolavori, se non il massimo capolavoro, di tutta la discografia dei Parliament, ovvero Mothership Connection. Un disco, appunto, una pietra miliare, dove già alla formazione stellare che si ritrovava prima dietro le spalle George Clinton in quel 1975 per questo Mothership Connection si aggiungeranno altri due pezzi da 90 delle formazioni di James Brown, ovvero Maceo Parker e Fred Wensley ai fiati, e ovviamente con veramente questa formazione all star del funky non poteva che non uscire fuori un capolavoro, di cui ovviamente P-Funk, la sigla, era ripresa da questo album, come già vi avevo accennato, ma volevo farvi ascoltare anche un altro paio di brani che ne vale veramente la pena da questo lavoro. Volevo farvi sentire prima la title track, Mothership Connection, Star Child, altro pezzo epocale della discografia di Clinton, e anche la super funky Give Up the Funk, Tear the Roof Off the Sucker, che entrambi non smetteranno di farvi muovere il culo neanche per un secondo qua su Radio Wombat a Tonight Alive. Parliament, Mothership Connection. Well, all right, Star Child, citizens of the universe, recording angels, we have returned to claim the pyramid. Partying on the mothership, I am the Mothership Connection. Get down in 3D, light year groove. Put a glide in your stride and a dip in your hip and come on to the mothership. Loose boot, doing the bump. Hustle on over here. Yeah. ain't nothing but a party. Star Child here, citizens of the universe. I bring forth to you the good time on the mothership. Are you here? Doing it in 3D. So good is good to me. Sentiamoci subito a rota qui su Tonight Alive, Give Up the Funk, sempre dei Parliament, George Clinton, Radio Wombat. Tether him off, we gonna tether him off, the mother sucker, tether him off, the sucker. Tether him off, we gonna tether him off, the mother sucker, tether him off, the sucker. Tether him off, we gonna tether him off, the mother sucker, tether him off, the sucker. Tether him off, we gonna tether him off, the mother sucker. We want the pump. Give up the pump. all we need. Let us in, we'll turn his mother out. All we need. All we need. Let us in, we'll turn his mother out. All we need. Che disco è questo, questo Mothership Connection del 1975? Non potevo non farvi sentire più pezzi da questo, è veramente una pietra miliare secondo me. Però la grande produzione di George Clinton in quegli anni non si ferma, e nell'anno successivo l'album del 1976, The Clones of Dr. Frankenstein, anzi Dr. The Clones of Dr. Frankenstein, scusate perché qui la lingua comincia a andare perduta, è un altro nuovo grande successo per la band di George Clinton. Con questo nuovo album verrà raggiunta la terza posizione nella classifica specifica dell'R&B, e può essere veramente considerato questo disco come il manifesto mistico-cosmico del pure funk, o come viene chiamato P-Funk, di George Clinton. E da questo The Clones of Dr. Frankenstein ci ascoltiamo appunto Dr. Frankenstein. Radio Wombat, Tonight Alive, Parliament. Whoa! They say the bigger the headache, the bigger the pill, baby. Call me the big pill. Dr. Frankenstein, the disco fiend with the monster sound. The cool goo with the bum transplant. Hip bone connected to my thigh bone connected to my leg bone connected to my ankle bone. I get so hung up on bones. Dr. Frankenstein here. Preoccupied and dedicated to the preservation of the motion of hips. We love you, Frankenstein. Your funk is the best. Talk. Take my body and give it to mine. You walk with the rest. Kiss me on my ego. Hit me with a one and then. If you like, hit me again. We love you, Frankenstein. With lippin', ego trippin', and body snatchin'. Don't blow your mind. Coming to you directly from the mothership. Pulling up the last leg of the feet pump. With your mind. We love you, funk, you Frankenstein. Your funk is the best. Let me hear it for me. Take my body and give it to mine. You funk with the rest. Hit me with the one and win. If you like, hit me again. All we right. Love you, Frankenstein. A microbiologically speaking, when I start churning, burning, and turning. It'll make your atoms move so fast, expanding your molecules, causing a friction fire, burning you on your neutron, causing you to scream, hit me in the proton. Baby. Y'all got your sunglasses on out there. On my ego. Dopo questo Dr. Funkenstein del 1976, nell'anno successivo, sempre su Casablanca Records, verrà fatto uscire sempre a nome Parliament, Funkentallity vs. The Placebo Syndrome, che sarà l'ennesima entrata in classifica per un album dei Parliament, in questo caso addirittura numero uno della classifica R&B con il singolo Flashlight. E, tra l'altro, canzone dove si sente soprattutto il basso del sintetizzatore ultra funky, del mini Moog ultra funky del tastierista Bernie Worrell. E questo album diverrà il quarto consecutivo disco d'oro dei Parliament e il secondo consecutivo disco di platino della loro discografia. E allora ascoltiamoci questa Flashlight dei Parliament, sempre su Tonight Alive, non ve lo dimenticate, Radio Wombat. I just can't find the La loro musica è allora finita, non mi accorto. Comunque stavo dicendo che la loro musica è tutt'altro che amatoriale, si sente bene. Infatti il tastierista Bernie Worrell, che si può un po' considerare l'inventore di queste linee di basso, di sintetizzatore, e il bassista William Bootsy Collins, sono da annoverare proprio tra i grandi maestri dei loro strumenti. E arriviamo nel 1978, dove i Parliament faranno uscire il loro Motor Booty Affair, che forse si può considerare tra i loro album più, più elettronici e sperimentali, con Ramp of Steel Skin e Aqua Boogie, che entrambe nella loro versione da singoli entreranno nella classifica di Billboard riservate alla musica black. E per questo album, per questo Motor Booty Affair, i Parliament, come anche poi successivamente qualche album precedente, daranno la cura della copertina dell'album all'artista nonché amico Overton Lloyd, che tra l'altro poi diventerà anche un artista un pittore abbastanza famoso in certi ambiti, anche proprio grazie a queste opere per le copertine della band di George Clinton. E adesso ascoltiamoci questo singolo Aqua Boogie, qui nella versione estesa, nella versione del 12 pollici, e questa appunto dei Parliament è Aqua Boogie 1978, Radio Wombat. I am Sir Lone, devoid of fun. I can't swim, I never could swim, I never will swim. I'll put me down, let go my leg. I told you I could be shot, I told you I can't swim. Oh no. Put me down, I hate water. Oh. Bye-bye. E questa era la lunghissima versione in 12 pollici di Aqua Boogie, singolo del 1978 dei Parliament. E poi la saga dei Parliament continua con il 1979 con Glory Halla Stupid, il album che contiene Theme from the Black Hole, e la loro saga terminerà poi con l'ultimo album del 1980 intitolato Thrombipulation. E però facciamo un passo indietro e ritorniamo all'altro progetto di George Clinton, ovvero i Funkadelic. E li avevamo lasciati nel 1972 con America It's It's Young, e poi il loro percorso musicale proseguirà con Cosmic Slope del 1973, Standing on the Verge of Getting, che è del 1974, la raccolta di un loro concerto live, Let's Take It to the Stage, del 1975, e Hardcore Jollies del 1976, che a mio modesto parere sono lavori abbastanza minori. Ecco, in quella fine di anni 70, questo espandersi e contrarsi delle varie formazioni di George Clinton, con cambi di line-up, aggiunte, oppure musicisti che se ne vanno, comincia a pagare appunto il suo dazio in questo finale degli anni 70. Infatti tutti i membri originali dei Parliament, ovvero Fuzzy Haskins, Kelvin Simons e Grady Thomas, decideranno di lasciare nel 1977 la band di George Clinton. E pensiamo che insomma questi ultimi tre erano i membri originali che c'erano già dai tempi del negozio di barbiere alla fine degli anni 50, e questo la dice lunga su come George Clinton facesse da manager e gestisse questo gruppo. Non era certo una persona facile neanche lui con cui averci a che fare. E dopodiché nel 1978 anche Glenn Goins e il batterista Jerome Bradley lasceranno i Parliament Funkadelic, sempre per dispute con il modo di gestire il gruppo da parte di George Clinton. E tutti questi componenti non hanno lasciato i Parliament Funkadelic, certo in amicizia con George Clinton. E a questo punto sembrerebbe giunta al termine la storia di queste due band. Però invece, come in tutte le migliori storie, anche qua c'è il colpo di coda finale, e avverrà nel 1978 con un altro album epocale. Se la pietra miliare della discografia dei Parliament era stato appunto Mothership Connection, la pietra angolare della discografia dei Funkadelic è sicuramente One Nation Under a Groove del 1978, che è sicuramente anche l'album più conosciuto in assoluto della band, e rimane sicuramente un pilastro su cui si basa una grandissima parte di tutta la musica funk. Rispetto alle precedenti pubblicazioni dei Funkadelic, che erano caratterizzate da sonorità tipicamente rock, in questo brano, nel singolo contenuto in One Nation Under a Groove, l'omonimo singolo, si rifà principalmente alla musica dance, invece, in quanto abbastanza veloce e strutturato in parti compatte. One Nation Under a Groove fu appunto pubblicata come singolo e arrivò 28esima nella classifica generale e addirittura prima nella classifica dedicata alla musica soul di Billboard, e addirittura dove rimase appunto al primo posto per 6 settimane consecutive, in quel periodo di tempo che nessun'altra hit dello stesso periodo riuscì mai ad eguagliare. E allora ascoltiamoci questa One Nation Under a Groove dei Funkadelic. Pura storia su Radio Wombat, Tonight Alive. Yes, our way out of our constriction. Gonna be freaking up and down the hang up alleyway. With a groove I only got, we shall all be moved. Ready or not, here we come. Getting down on the one which we believe. questa era la leggendaria One Nation Under a Groove dei Funkadelic del 1978. E poi continueranno la loro produzione con gli album successivi, Uncle Jam Wants del 1979, The Electric Spanking of War Babies del 1981. E questo sarà, questo Electric Spanking of War Babies sarà l'ultimo della saga dei Funkadelic, e nel 1992 uscirà Music for Your Mother, che sarà un po' il greatest hits, che raccoglierà tutti i singoli dei Funkadelic. Ma comunque continueranno a pubblicare anche fino ai giorni nostri, soltanto piano piano con le varie defezioni crearono una moltitudine di act bizzarri, tutti riconoscibili per l'ereditario figlio sacrilego, che crearono un po' di confusione, tipo i P-Funk All Stars, i Parlet, Brides of Frankenstein, Jimmy G and the Tuck Heads e molti altri con molti altri nomi. E tutti in parallelo sulla falsa riga dei loro archetipi strumentali acid funk, e spesso e volentieri il loro repertorio si accrebbe anche di gag sempre più ipnotiche e goliardiche. Ora, di questi tutti ultimi album dei Funkadelic volevo farvi ascoltare Knee Deep da Uncle Jam Wants You del 1979. Tonight Alive, Radio Wombat, Funkadelic. A beat, yeah. Boy, was it neat, yeah. Not just knee deep, she was totally knee deep when she did the freak with me. Never missing a beat, yeah. Boy, was it neat, yeah. The girl's a freak, the girl never misses a beat, yeah, yeah. It didn't twerk, no. It wasn't fucking no more. Oh, Con quest'ultima Knee Deep dei Funkadelic del 1979 finisce la nostra retrospettiva sulle due band nate dalla mente di George Clinton, dai Funkadelic e dai Parliament, e non mi resta, come uso e costume di Tonight Alive, lasciarvi ad un loro concerto. In questo caso ho scelto per voi un concerto dei Parliament sotto il nome di Parliament del 1977, P-Funk Earth Tour, esattamente, con concerti registrati, è stato fatto uscire anche come album, tra l'altro, e sono concerti registrati in due date del gennaio del 1977, registrate sia all'Oakland Coliseum di Oakland, ovviamente, che al Los Angeles Forum. E vi lascio appunto a questo grande concerto dei Parliament. Dalai Dama vi fa i più sentiti saluti per il proseguo di questo funkeggiante sabato sera, e come sempre con Tonight Alive qui su Radio Wombat vi do appuntamento a sabato prossimo. Buon sabato a tutti, ciao da Radio Wombat. Wombat. All we hear is Radio Wombat.